fai. Sia fai. Sia fai te. Via fai, via fai te, insomma, insomma, insomma sì, via, via fai. Bizarre. Experiment, lot of danger.